Vangelo di San Luca, capitolo 22. Or la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava, e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, perché temevano il popolo. E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani su come lo darebbe loro nelle mani, ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo nascosto alla folla. Ora venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a prepararmi la Pasqua, affinché la mangiamo». Ed essi gli dissero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli disse loro: «Ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: «Il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli?» Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala ammobiliata, quivi apparecchiate. Ed essi andarono e trovarono come egli aveva lor detto, e prepararono la Pasqua. E quando l'ora fu giunta, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». E avendo preso un calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimenti ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto del mio sangue, il quale è sparso per voi. Del resto, ecco la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola. Poiché il figliuolo dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato, ma guai a quell'uomo del quale è tradito». Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri: «Chi sarebbe mai quel di loro che farebbe questo?» Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Ma egli disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma tra voi non ha da esser così, anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come lui che serve. Poiché chi è maggiore, colui che è a tavola, oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato meco nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e bevete alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni giudicando le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli». Ma egli gli disse: «Signore, con te sono pronto di andare in prigione e alla morte». E Gesù: «Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente?» Ed essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimenti una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, poiché io vi dico che questo è che è scritto deve essere adempiuto in me. Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero, Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro, basta. Poi, essendo uscito, andò secondo il suo solito al monte degli ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro, pregate chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e disse loro, «Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entrate in tentazione». Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse, «Giuda, tradisci tu il figliolo dell'uomo con un bacio?» E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava per succedere, dissero, «Signore, percuotere noi con la spada?» E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse, «Lasciate, basta!» E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui, «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messe le mani addosso. Ma questa è l'ora vostra e la podestà delle tenebre». E presolo lo menarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote. E Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco, avendolo guardato fisso, disse, «Anche costui era con lui». Ma egli negò dicendo, «Donna, io non lo conosco». E poco dopo un altro, vedutolo, disse, «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose, «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo, «Certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo». Ma Pietro disse, «O uomo, io non so quel che tu dica». E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli aveva detto, «Prima che il gallo canti, oggi, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e avendolo bendato gli domandavano, «Indovina, profeta, chi t'ha percosso?» E molte altre cose dicevano contro a lui bestemmiando. E come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lo menarono nel loro sinedrio dicendo, «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro, «Se ve lo dicessi non credereste, e se io vi facessi delle domande non rispondereste. Ma da ora innanzi il figliuolo dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero, «Sei tu dunque il figliuolo di Dio?» Ed egli rispose loro, «Voi lo dite, perché io lo sono». E quelli dissero, «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca».